Storiacce di Raffaella Calandra. Voglio fare soltanto due considerazioni. Sperare che questa morte così orribile di Sara non sia inutile, dicendo due cose. La prima, l'invito sincero alle ragazze a confidarsi, a denunciare, a parlare con i loro amici, con le amiche, con i familiari, a non tenere nascosti comportamenti, condotte persecutorie, di minacce, perché non si può restare soli di fronte alla violenza di chi afferma di volerti bene e in realtà così non è. La seconda, un invito caldo a chi si imbatte in una ragazza che chiede aiuto, a non essere indifferente, a non voltarsi dall'altra parte. Quanti femminicidi accadono anche per questo? Quanti delitti di donne si potrebbero evitare con qualche confidenza in più, con qualche denuncia in più e un po' di sottovalutazione in meno? E poi quante vite avrebbero potuto avere un altro finale se gli altri, i passanti, il mondo tutto intorno si fosse fermato, si fosse preoccupato del mondo e delle eventuali richieste di aiuto? Quante persone sarebbero ancora in vita? Ma quanti di noi poi sono disposti a non fermarsi, a non farsi solo i fatti propri e pensare anche a quelli degli altri? Quanto uccide l'indifferenza? Tema delicato e complicato in questa puntata di Storiacce, tema aperto dal caso di Sara, la ventenne uccisa e bruciata alla Maiana, e dalle parole del procuratore aggiunto di Roma, Maria Monteleone. Tema valido però a tutti i livelli per i tantissimi femminicidi che in Italia continuano a consumarsi e per il crimine in generale. Se vi va, commentatelo con noi sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raff Calandra. E voi sareste disposti a fermarvi davanti ad una richiesta d'aiuto nel cuore della notte? Da qui parte questa puntata di Storiacce. Lui urlare non l'ho sentito, ve l'ho detto, io alla fine ero convinta che fosse scappato, sì. Perché io gli dicevo, vieni a uccidermi, non sono morta, non mi puoi mica lasciare così, gli dicevo, perché secondo me lui non mi voleva fare del male, voleva uccidermi e uccidersi. Come si fa? Cioè, tu mi vuoi eliminare dalla faccia della terra? Non solo non ci riesci, no, perché non solo non ci sei riuscito, hai fatto una merdata talmente grande, non sei neanche riuscito a compiere, chi ne paga le conseguenze di tutto io. Quante persone possono parlare di sé e allo stesso tempo della propria morte? Quella di Valentina Pizzalis si è compiuta 5 anni fa, il 17 aprile 2011, il giorno in cui, come scrive nel suo libro Nessuno può toglierti il sorriso e come racconta a Rete 4, il marito l'ha cosparsa di cherosene e gli ha dato fuoco. Bruciata viva dall'uomo con cui pensava di dividere tutta la vita, proprio come è successo ad altre donne, una 60ina già, uccise solo nei primi 6 mesi di quest'anno in Italia. Quasi tutte morte per mano di mariti, compagni o ex fidanzati che non accettano separazioni, che non si rassegnano a nuove vite, che uccidono invece di andare avanti. Come è successo a Sara, 20 anni, seguita, tormentata, minacciata, soffocata e poi bruciata dal suo ex fidanzato in una notte d'estate romana. Lei non aveva voluto denunciarlo, lei si era rifatta una vita e pensava che quelle insistenze di Vincenzo, il suo ex, fossero solo dolore per una separazione subita. E questo è uno degli aspetti più ricorrenti nella lunga sfilza di femminicidi, che non si fermano neanche con la legge sullo stalking o con una norma specifica per punire i delitti di genere. Quanti ancora sono le donne che sottovalutano i pericoli che possono provenire dai propri uomini? Nonostante una sensibilità crescente verso il tema, che forse è l'unico aspetto positivo della questione, molte si sarebbero potute salvare condividendo le loro paure, concorda Giusy Laganà, fondatrice di Fare per Bene Ollus e coautrice del libro di Valentina. Molto spesso la storia di Valentina Pizzalis poi lo dimostra. Le donne pensano sempre che quando incontrano un uomo, no, quando c'è l'amore, la manifestazione di alcune forme di possesso, come quella di, come la gelosia che impone il controllo del cellulare, il non vestirsi in un certo modo, non uscire, non salutare un altro essere umano di sesso maschile, una sorta appunto di possesso manifestata in maniera molto costante, sia amore. Allora la donna spesso dice, va bene, ok, però se io non mi comporto come lui pensa che io mi comporti, se non faccio nulla di male, fra virgolette, lui cambierà idea e quindi pensa che cambierà. In realtà questo è il primo passo per l'abisso, perché non solo non cambia, ma l'asticella viene spostata sempre più in alto e quello che è la gelosia, che è la violenza, che spesso è soltanto psicologica, attenzione, ed è quasi più difficoltosa da scoprire, aumenta e alla fine poi, come abbiamo visto, spesso in tragedia. Ecco, esiste quindi un problema di sottovalutazione del rischio. Citavi anche proprio il caso di Valentina. Sì. Assolutamente sì, lei pensava che questo fosse amore, no? Lei dice: io avevo incontrato la mia anima gemella, quindi prima era l'amore, ma l'amore è quello bello, quello romantico, quello che spesso si incontra, no? Si pensa una sola volta nella vita. Quell'amore poi è diventato possesso, poi lui in particolare non le consentiva di uscire da sola, di fare tantissime cose. Lei non solo ha sottovalutato i campanelli d'allarme, ma non era in grado, proprio perché spesso queste persone avrebbero bisogno di professionisti del settore, di psicologi, di medici disposti ad aiutarli. Lei non l'ha fatto e quando, cosa accade? Qual è quel meccanismo particolare? Che quando poi la donna invece si rende conto che si sta cadendo in qualcosa di veramente drammatico, che l'ossessione diventa più ampia, la violenza psicologica o quella fisica degenerano e decide di lasciare il partner, scatta qualcosa nella mente del partner e spesso è: se non sarai mia non sarai di nessun altro. Ma se questo è un aspetto complesso eppure molto intimo che attiene alla vita e al cuore di ciascuna delle donne che devono decidere di vedere con occhi diversi l'uomo che avevano scelto di amare, c'è un altro aspetto che chiama in causa tutti noi. Un invito caldo a chi si imbatte in una ragazza che chiede aiuto, anche di notte, o che può avere motivo di pensare che si trovi in difficoltà, a non essere indifferente, a non voltarsi dall'altra parte, ma fermarsi e quantomeno chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Se questo fosse accaduto, forse Sara sarebbe ancora viva. Quanto uccide l'indifferenza? Per il procuratore aggiunto di Roma, titolare delle indagini sul delitto di Sara, più persone sono passate quella notte alla Magliana mentre l'auto di Sara bruciava, eppure il suo corpo. Per il magistrato Maria Monteleone, quella ragazza si sarebbe potuta salvare se qualcuno si fosse fermato, se qualcuno avesse chiamato le forze dell'ordine, fosse cioè intervenuto, se si fosse insomma preoccupato anche del mondo intorno, invece di abbassare lo sguardo, premere il piede sull'acceleratore e farsi solo i fatti propri. Era già successo a Napoli, mentre un musicista rumeno, Petru Birladeanu, veniva colpito per sbaglio in una sparatoria tra faide. Si è ripetuto ancora a Milano, quando il laganese Cabobo faceva strage. È successo ancora a Roma, con la morte di Sara Di Pietrantonio. È difficile essere testimone, come è capitato ad Edoardo Paraninfi, 18enne, passato per la Magliana, mentre Sara, appunto, veniva bloccata dal suo ex, come ha raccontato alla Zanzara. C'è stato questo ragazzo che stava appoggiato alla macchina e lei, diciamo, che lo rimproverava. Io ho girato la testa e sì, ho visto i colori più importanti. Ho visto quello che ti rimane, c'è una foto, no? Un momento, diciamo. Sono tornato dopo un'ora perché al ritorno sono andato a mangiare al McDonald's. Al ritorno ho fatto la via della Magliana al contrario e c'era la macchina della polizia con questa macchina bruciata. Era già totalmente bruciata la macchina. C'era la polizia stradale. Sinceramente io adesso chiamerei la polizia perché ci sono passato, però dicendovi che per quello che ho fatto, per la fiducia che ho dato in questo paese, sono andato a costituirmi, ho fatto tutto, io la mattina se mi risveglierei e saprei questo che mi stanno facendo, ci penserei due volte. Io provo rimorso solo perché sono passato troppo prima e troppo dopo. Ho detto le cose come stanno, ho detto che ho visto questo ragazzo e l'ho detto da persona matura, anche se ho 18 anni. Io non mi sento un vigliacco perché ho visto quello che ho visto e ci sono le telecamere che testimoniano quello che ho visto io in quel momento. E così ancora un altro testimone, un altro autista che passava alle 4 di notte in una zona periferica, perché poi, dobbiamo dire, anche questo conta, allontana ogni accusa di indifferenza. Io quella sera sono passato qua, sì, so io quello che ha fatto la telefonata al 112 e mi dispiace, perché se sarei passato 5 minuti prima, può essere che quello che è successo non sarebbe successo. La vicenda della Magliana, l'omicidio di Sara, È un caso ancora aperto, drammatico e terribile. Ma nella sua mostruosità, o forse proprio per quello, ha turbato il paese, ha riaperto un dibattito, quello sui femminicidi, ha portato di nuovo tutti ad interrogarsi su queste tante storie di uomini che odiano le donne. La maggior parte invece scivolano via, restano numeri per le statistiche, conquistano un titolo nelle pagine di cronaca e non sempre, e poi si perdono nel turbinio dell'attualità. E poi invece ci sono quei visi come quello di Sara, giovane, bella, sorridente, che è rimasto nella testa di tutti noi, simbolo ora della strage continua delle donne che non si ferma nonostante le leggi, perché forse, come con l'abitudine a fermarsi in caso di richiesta d'aiuto, solo da un cambiamento culturale può arrivare un nuovo inizio, come quello che Valentina ha voluto per sé dopo essere morta, bruciata nelle fiamme, appiccata dal marito, e da cui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Storiacce. Da Trieste a Caserta, passando per Milano, si allunga ormai di giorno in giorno e attraversa l'intera penisola l'elenco delle donne uccise o violentate dal marito, dal compagno o dall'ex. Nel capoluogo friulano ha confessato Dragoslav Kostic, il 61enne serbo, accusato di aver ucciso l'ex moglie Slavica di 37. Il cadavere della donna, scomparsa il 26 aprile scorso da Trieste, dove lavorava come badante, è stato ritrovato nelle gole del Carso Sloveno, laddove l'aveva seppellita il reo confesso Kostic. È stata salvata solo dall'intervento degli uomini della Polmetro, invece, la 32enne vittima a Milano di un'aggressione da parte del marito. L'uomo, 34 anni, si era presentato sul posto di lavoro della moglie munito di un vero e proprio kit composto da due trapani, un martello e due flaconi di liquido infiammabile. Le minacce e le violenze andavano avanti da anni. Si teme si possa trattare di femminicidio, infine, anche a Bellona, nel Casertano, dove il corpo di una 52enne, Anna Della Cioppa, è stato ritrovato carbonizzato nei pressi del cimitero. La donna era scomparsa ieri dall'abitazione in cui viveva con il compagno. Storie di ordinaria violenza contro le donne. Quello che questo servizio di Emiliano Mariotti racconta è solo un giorno come un altro, uno dei tanti giorni in cui da una parte all'altra del paese si consuma una strage silenziosa di donne, mogli, fidanzate, ex compagne, strangolate, uccise, bruciate dagli uomini che pensavano di amare o più spesso dai loro ex. Più di 60 dall'inizio dell'anno le vittime accertate, neanche il tempo di cingere di drappi rossi gli alberi d'Italia in memoria di Sara, la ventenne romana, neanche il tempo di commuoversi per questa giovane uccisa e bruciata alla Magliana dal suo ex, che subito altre donne hanno fatto la sua stessa tragica fine. Una strage silenziosa, dicevamo, che si ripete nonostante la legge specifica sul femminicidio, nonostante quella sullo stalking, che pur hanno contribuito a far aumentare le denunce e a moltiplicare gli allontanamenti di uomini violenti. Perché se ogni tanto c'è un caso che più di altri scuote, tocca, commuove, come è avvenuto per la triste fine di Sara di Pietrantonio, molti altri neanche raggiungono la nostra conoscenza. Nel giro di poche ore abbiamo potuto, credo, accertare come è morta Sara e abbiamo potuto così disporre il fermo dell'autore di questo veramente orribile delitto. L'autore è un suo ex fidanzato che non ha accettato il fatto di essere stato abbandonato, ha organizzato, programmato l'aggressione alla ragazza, tant'è che è fermato per omicidio volontario premeditato, e ha atteso in ora notturna il rientro della ragazza a casa, ha dato fuoco con l'alcol alla sua vettura e ha dato fuoco alla ragazza. L'ha inseguita e le ha dato fuoco. Che può esserci di peggio? Cosa può far rabbrividire di più che la cronaca di una morte così, come è stato per Sara e come ha descritto il procuratore aggiunto Maria Monteleone? fatti che scuotono dentro, fatti che ci interrogano, anche perché, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, ci si chiede se anche solo uno di questi delitti si sarebbe potuto evitare con una denuncia in più, con una confidenza in più. Quella gelosia, ad esempio, che diventa possesso incontrollato, deve diventare un campanello d'allarme, come a sue spese ha imparato Valentina Pizzalis, bruciata dal suo ex, sfigurata da quelle fiamme. Mi ha detto di cambiare il numero di telefono in modo tale che comunque i miei vecchi contatti, comunque i miei amici non mi potessero contattare, perché lui voleva avere il controllo. Feci questa cosa perché appunto non avevo niente da nascondere, quindi il primo passo. Dopodiché non bastava neanche quello, perché non contento, comunque non fidandosi del fatto che chissà che telefonate ricevessi, iniziò a chiedermi insomma di controllare il telefono, così. E io stupidamente gli dissi: ma guarda, per me tu puoi anche tenere il telefono, non c'ho niente da nascondere. Ma l'errore fu più grande, perché quel telefono in realtà dal momento io non lo vedo praticamente più, nel senso che non posso mai fare una chiamata, cioè il telefono tiene lui. Qualcuno di vicino alle vittime si fosse imposto e avesse letto in altra luce indizi come questo, qualcosa sarebbe cambiato nella vita di Valentina o in quella delle altre vittime? Dubbi che finiscono per lacerare i familiari delle vittime, ma che interrogano anche tutti gli altri, anche i semplici, inconsapevoli testimoni. Come è stato per Sara, mentre litigava col suo ex nei suoi ultimi minuti di vita, dei passanti l'hanno notata. Ma nessuno si è fermato perché, come ha raccontato nella prima parte di Storiacce, uno di loro sembrava una normale lite di coppia. E allora forse è meglio intervenire in ogni caso, meglio farsi accusare di impicciarsi troppo dei fatti altrui che poi essere logorato dai sensi di colpa? E anche questo, quello che Giusy Laganà, anima insieme a Valentina della Onlus O Fare Per Bene, cerca di trasmettere alle ragazze più giovani che incontra nelle scuole. Sicuramente il fatto che ci siano più leggi, che ci sia più consapevolezza, ha spinto le donne ad uscire dal silenzio. Sanno che possono essere più tutelate, sanno che esiste una legge in questo senso, ma soprattutto sanno che hanno compreso che non sono loro ad essere sbagliate. L'altro aspetto che secondo me è il fatto che ci dovrebbe essere la certezza della pena. Io devo sapere che quando denuncio automaticamente il mio carnefice verrà allontanato da me, che mi sarà garantita l'incolumità, che ho la possibilità di avvalermi di un legale anche se non ho la disponibilità economica e che i miei figli saranno in sicurezza. Però da questo punto di vista le leggi negli ultimi anni hanno fatto molto. Altro discorso è la difficoltà dell'applicazione di queste leggi, però esatto. Da un punto di vista normativo molto è stato fatto, infatti c'è stato anche un raddoppio sia delle denunce sia anche degli allontanamenti. Sì, ma non basta, perché i numeri ci dicono che se oltre 10 milioni di donne in questo paese, all'indagine di Istat, hanno subito almeno un tipo di attenzione fisica non voluta o di violenza sessuale, vuol dire che sicuramente è stato fatto tanto, ma non basta. I femminicidi ce lo dimostrano, che bisogna sicuramente aiutare le donne ad uscire da questo silenzio, e l'opinione pubblica, le persone che stanno accanto alle donne, come nel caso di Sara. Non dico che ti dovevi fermare in quel frangente, ma sicuramente fare una telefonata, sicuramente denunciare quando si vede qualcosa che non va, credo che sia un dovere civico di ognuno di noi. Questo è l'altro grande tema, appunto, che si è introdotto dopo l'assassinio, appunto, di Sara a Roma. In realtà poi, diciamo, anche i racconti dei diretti testimoni sono andati in procura, in qualche modo assicurano di non aver percepito una sensazione di pericolo. L'altro tema è, in qualche modo, quando si vedono un uomo, una donna, una coppia litigare, ecco, prevale comunque la sensazione di non doversi mischiare nei fatti altrui, soprattutto quando c'è una coppia in ballo, è così? Assolutamente sì, ti do di più, Raffaella. Guarda, a me è capitato, una volta, sono di origine calabrese, di assistere a ero giù in vacanza, c'era praticamente uno scontro per strada tra una donna, palesemente col suo ragazzo, col suo fidanzato. Questo gli ha dato uno schiaffo e poi gli ha dato un calcio negli stinchi. Io mi sono avvicinata, gli ho detto che doveva assolutamente smettere. La ragazza mi ha risposto: fatti i fatti tuoi, noi litighiamo così. Ecco, questo è un discorso di dovere civico, ma restringendo la cerchia anche alle persone più vicine alle vittime, in qualche modo di storie di donne vittime di violenza ormai ne conosci tante, in qualche modo anche le persone più vicine alle vittime dovrebbero in qualche modo entrare più direttamente nelle questioni anche private, non so, la vicenda anche di Valentina o delle altre donne che conosci. conosci, che cosa ti dicono? Spesso si diventa conniventi, la gente cosa dice? Se noi denunciamo, mi è capitato di vedere storie di madri, padri, famiglie che sapevano la violenza che avveniva tra le mura domestiche della loro figlia, della loro sorella, della persona che c'era in casa e addirittura tra le stesse mura domestiche con un familiare. Non bisogna tacere, perché se spezzi quel circolo vizioso, tu contribuisci a far sì che una donna possa recuperare il suo vissuto e rientrare a pieno titolo nella propria vita, nella vita delle persone che le vogliono bene. Ma i femminicidi purtroppo esistono da sempre, anche nella storia del mito. Linea allora, come sempre a questo punto, alle nostre mitiche storiacce e a Giorgio Ieranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Anno 431 a.C., il teatro di Atene, e gli spettatori vedono in scena una donna che lamenta i diritti calpestati del sesso femminile. La donna è Medea, fa un discorso famosissimo in una tragedia scritta da Euripide e sostiene che le donne, quando entrano nella casa di un maschio, quando si sposano, perdono qualsiasi diritto, vengono maltrattate, non hanno la possibilità di decidere della loro vita. Questo discorso di Medea è da sempre un manifesto dei movimenti anche femministi, a partire dalle suffragette inglesi. È un testo curioso perché è pronunciato in una città come Atene, dove noi sappiamo che in realtà la donna non godeva di nessuna libertà, e un discorso come quello di Medea sicuramente non apparteneva alla vita quotidiana delle donne ateniesi. Secondo il diritto ateniese, se una donna commetteva adulterio non poteva essere uccisa. Uno potrebbe pensare che ci fosse una forma di rispetto per le donne, in realtà ciò accadeva perché la donna era considerata come un oggetto e quindi neppure responsabile dell'azione dell'adulterio. Restano quelle parole di Medea, dette da Euripide, quell'appassionata rivendicazione dei diritti delle donne. Sarà vero che queste sono le prime parole femministe della storia dell'umanità? È difficile pensarlo, anche perché Medea poi è lo stesso personaggio che nella stessa tragedia di Euripide uccide i suoi figli. E forse non dovremmo attribuire agli antichi virtù che nemmeno loro avevano. In realtà la difesa dei diritti delle donne, che continua ancora, come ci insegnano fatti recenti, sicuramente non è iniziata nell'antica Grecia. Ma secondo voi come si può arrivare ad un'interruzione di questa lunga serie di femminicidi? Che cosa serve? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Ci trovate anche su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto.